ad alta voce. Daria De Florian legge Il diario di Anna Frank. Sabato 11 luglio 1942. Caracchitti. Papà, mamma e Margot non sono ancora riusciti ad abituarsi ai rintocchi della campana del Westertoren, che ogni quarto d'ora dice che ora è. Io sì, anzi mi piace. E soprattutto di notte mi dà una sensazione di sicurezza. Sarai curiosa di sapere come mi trovo qui nel nascondiglio? Beh, per il momento posso solo dirti che non lo so neanch'io. Penso che in questa casa non mi sentirò mai a mio agio, ma con questo non voglio assolutamente dire che mi trovo male. Direi piuttosto che ho l'impressione di trovarmi in una strana pensione, in un luogo di villeggiatura. In realtà è un modo un po' originale di considerare questo nascondiglio, ma è proprio quello che sento. Come nascondiglio è ideale. Nonostante sia umido e labirintico, direi che in tutta Amsterdam, anzi, forse in tutta l'Olanda, nessun nascondiglio è organizzato bene come questo. Con quelle pareti nude la nostra stanzetta era molto spoglia, grazie a papà che fin dall'inizio aveva pensato di portare tutta la mia collezione di cartoline e di stelle del cinema. Col pennello ho passato la colla su tutta la parete e ne ho fatto una specie di grande quadro, così è molto più allegra e quando verranno i Van Dan useremo il legno che c'è in soffitta per fare qualche scaffale e cosette del genere. Mamma e Margot si sono riprese un po'. Ieri la mamma ha voluto fare per la prima volta la zuppa di piselli, ma mentre chiacchierava di sotto è tutta bruciata e i piselli sono diventati neri come carboni e non si riusciva più a staccarli dalla pentola. Ieri sera tutti e quattro siamo scesi nell'ufficio privato per ascoltare la radio inglese. Avevo una tale fifa che qualcuno potesse sentirci che ho scongiurato papà di tornare di sopra. Mamma ha capito ed è salita anche lei. Anche per altre cose abbiamo sempre paura che i vicini ci sentano o ci vedano. Subito il primo giorno abbiamo confezionato le tende. Beh, in verità non si può chiamarle tende, visto che sono pezzi di stoffa qualsiasi di forma, qualità e motivi completamente diversi che papà e io abbiamo cucito insieme alla meglio. Questi capolavori sono stati appesi alle finestre con puntine da disegno e non saranno più tolti per tutto il tempo che resteremo nascosti qui. A destra della casa c'è una filiale della Keg, una ditta di Zandam. A sinistra un mobilificio, quindi fuori dall'orario di lavoro non c'è nessuno. Lo stesso i rumori si possono sentire. Per questo abbiamo proibito a Margot di tossire di notte, anche se molto raffreddata, e le propiniamo abbondanti dosi di codeina. Non vedo l'ora che vengano i Van Dan. L'arrivo è previsto per martedì. Sarà più divertente e non ci sarà più tanto silenzio. È proprio il silenzio, infatti, che di sera e di notte mi rende così inquieta e darei non so cosa perché qualcuno dei nostri protettori dormisse qui. Qui non si sta poi tanto male perché possiamo cucinare e ascoltare la radio giù nell'ufficio del babbo. Il signor Kleiman e Miep e anche Beppe Volskjul ci hanno aiutato moltissimo. Abbiamo già mangiato rabarbaro, fragole e ciliegie e penso che per il momento non ci annoieremo. Abbiamo anche da leggere e compriamo ancora un sacco di giochi. Naturalmente non possiamo guardare dalla finestra né uscire e poi dobbiamo essere silenziosi per non farci sentire di sotto. Ieri avevamo molto da fare. Abbiamo dovuto disossare due ceste di ciliegie per l'ufficio. Il signor Kugler vuole preparare la conserva. Trasformeremo le cassette delle ciliegie in scaffali per i libri. Mi chiamano. Tua Anne. Ventotto settembre 1942. Aggiunta. Mi opprime anche più di quanto non possa dire il fatto che non possiamo mai uscire. E ho una paura tremenda che ci scoprano e ci fucilino. Questa ovviamente è una prospettiva meno allettante. Venerdì 14 agosto 1942. Carissima Kitty, ti ho piantata in asso per un mese intero, ma non è che qui ci siano grandi novità e non mi capita ogni giorno di trovare qualcosa di carino da scrivere. I Van Dan sono arrivati il 13 luglio, li aspettavamo per il 14, ma visto che i tedeschi tra il 13 e il 16 luglio hanno continuato a terrorizzare sempre più gente, inviando chiamate a destra e a sinistra, hanno preferito venire un giorno prima che un giorno dopo. Di mattina alle 9:30, stavamo ancora facendo colazione, arrivò Peter Van Dan, un ragazzo piuttosto noioso e timido che non ha ancora 16 anni e dalla cui compagnia non c'è da aspettarsi un granché. La signora e il signor Van Dan arrivarono mezz'ora dopo e ci divertimmo moltissimo quando la signora tirò fuori dalla cappelliera un grande vaso da notte. «Se non ho il mio vaso da notte, non mi sento mai a mio agio», ci spiegò. E infatti proprio il vaso fu il primo oggetto a cui fu assegnato un posto fisso sotto il divano letto. Il signor Van Dan non aveva pitali, ma si era portato sotto il braccio il suo tavolino da tè pieghevole. Il primo giorno della nostra convivenza mangiamo insieme in armonia e dopo 3 giorni tutti e 7 avevamo l'impressione di essere diventati un'unica grande famiglia. Ovviamente i Van Dan avevano da raccontare un sacco di cose della settimana in più che loro avevano trascorso nel mondo abitato. Tra l'altro ci interessava sapere che fine avessero fatto il nostro appartamento e il signor Goldschmidt. Il signor Van Dan raccontò. Lunedì mattina alle 9 il signor Goldschmidt ci telefonò e mi chiese se potevo passare un momento da lui. Ci andai e lo trovai tremendamente agitato. Mi fece leggere una lettera che la famiglia Frank gli aveva lasciato dove gli si chiedeva di portare la gattina dai vicini, cosa che io approvai. Temeva che potesse esserci una perquisizione, per questo passammo in tutte le stanze a mettere in ordine e sparecchiammo la tavola. D'un tratto, sulla scrivania della signora Frank, scoprì un blocco per appunti su cui era segnato un indirizzo di Maastricht. Benché sapessi che la signora l'aveva lasciato lì apposta, mi finsi molto sorpreso e spaventato e pregai il signor Goldschmidt di bruciare subito quel pericoloso appunto. Finsi per tutto il tempo di non saperne nulla della vostra fuga, ma dopo aver visto quell'indirizzo mi venne una buona idea. «Signor Goldschmidt», esclamai, «adesso che ci penso mi viene in mente che cosa può significare questo indirizzo. Mi ricordo perfettamente che circa 6 mesi fa in ufficio venne un alto funzionario, che poi si rivelò un amico d'infanzia del signor Frank, che gli promise che in caso di bisogno lo avrebbe aiutato. Abitava proprio a Maastricht. Credo che quest'uomo abbia mantenuto la parola e porti in qualche modo in Belgio e da lì in Svizzera il signor Frank. Lo dica pure a tutti quelli che dovesse chiedere dei signori Frank. Naturalmente non c'è bisogno che menzioni Maastricht. Detto questo me ne andai. Ormai la notizia si è diffusa perché mi è già tornata da parecchie parti. La storia ci aveva divertiti molto, ma ci fece ancora più ridere quello che il signor Van Dan raccontò di altri conoscenti. Una famiglia del Merwederplein ci aveva visti passare in bicicletta tutti e 4 e un'altra donna era sicura che fossimo stati portati via a bordo di un'auto militare nel cuore della notte. Tua Anne. Venerdì 21 agosto 1942. Carissima Kitty, solo adesso questo è diventato un vero nascondiglio. Il signor Kugler ha voluto coprire la porta di accesso con uno scaffale perché vengono fatte molte perquisizioni in cerca di biciclette nascoste, ma ovviamente lo scaffale è girevole e si apre come una porta. È opera del signor Vosquill. Abbiamo messo al corrente il signor Vosquill del fatto che qui ci siamo nascosti noi 7 e lui si sta facendo in 4 per aiutare. Adesso, se vogliamo scendere, dobbiamo prima chinarci e poi saltare. Dopo 3 giorni avevamo tutti la fronte piena di lividi, perché continuavamo a sbattere contro la porta troppo bassa. Poi Peter ha cercato di risolvere il problema inchiodandoci sopra un cuscino imbottito di segatura. Vediamo se serve. Non studio un granché. Fino a settembre mi concedo una vacanza. Dopo papà mi darà lezioni, ma dovremo comprare tutti i libri di scuola nuovi. Nella nostra vita non ci sono molti cambiamenti. Oggi Peter si è lavato i capelli, ma non è che sia un fatto eccezionale. Il signor Van Dan e io bisticciamo sempre. Mamma mi tratta come se fossi una bambinetta. Non lo sopporto. Per il resto va un po' meglio. Peter non mi è più simpatico che all'inizio. È un ragazzo noioso. Se ne sta a poltrire tutto il giorno a letto. Ogni tanto fa qualche lavoretto di falegnameria e poi torna a dormire. Che stupido. Questa mattina la mamma ha fatto un'altra delle sue terribili prediche. Siamo sempre di opinione diametralmente opposte. Papà è un tesoro, anche se a volte mi tiene il muso per 5 minuti. Fuori c'è bel tempo e fa caldo e noi ne approfittiamo il più possibile andando a sdraiarci sul letto pieghevole in soffitta dove da una finestra aperta entra il sole. Tua Anne. Mercoledì 2 settembre 1942. Cara Kitty, i signori Van Dan hanno litigato da matti. Non avevo mai visto niente di simile, perché mamma e papà non si sognerebbero mai di scagliarsi l'uno contro l'altro in quel modo. Il motivo era talmente futile che non valeva nemmeno la pena di dire una parola, ma non siamo tutti uguali. Ovviamente è molto imbarazzante per Peter, che è proprio in mezzo, però nessuno lo prende più sul serio perché è terribilmente frignone e pigro. Ieri era totalmente sconvolto perché aveva la lingua blu anziché rossa. Lo strano fenomeno è sparito con la stessa rapidità con cui si era presentato. Oggi il signorino va in giro con una grossa sciarpa attorno al collo e poi si lamenta per un dolore alla schiena. Parla anche di dolori al cuore, ai reni e ai polmoni. È un vero ipocondriaco. Si dice così, no? La mamma e la signora Van Dan non vanno particolarmente d'accordo. Pretesti per scontri ce ne sono a bizzeffe. Tanto per citare un piccolo esempio, ti dirò che la signora ha tolto dall'armadio comune della biancheria tutte le sue lenzuola salvo 3. Dà per scontato che la roba della mamma debba bastare per tutta la famiglia. Ci resterà con un palmo di naso quando scoprirà che la mamma ha seguito il buon esempio. Poi è furente che non si usi il nostro servizio di piatti ma il suo. Cerca sempre di scoprire dove abbiamo messo i nostri piatti. Sono più vicini di quanto non pensi, perché sono in soffitta negli scatoloni dietro una montagna di materiale pubblicitario della Opecta. Finché restiamo qui nascosti i piatti saranno irraggiungibili, tanto meglio. Io sono terribilmente maldestra e ieri ho rotto una delle fondine del servizio della signora. «Oh!» ha esclamato lei infuriata. «Vedi di stare un po' attenta, è l'unico che mi resta!» Devi sapere, Kitty, che le due signore qui parlano un olandese tremendo. Degli uomini non oso dire niente, si offenderebbero a morte. Ti scandalizzeresti a sentirle parlare. Noi non ci badiamo più. Correggerle non serve a niente. Quando ti scrivo della mamma e della signora Van Dan, tieni presente che non userò il loro linguaggio originale, ma la forma corretta. Lunedì 21 settembre 1942. Cara Kitty, oggi ti racconto le novità generali dell'alloggio. Sopra il mio divano letto è stata montata una lampadina, in modo che se sento sparare posso tirare la cordicella. Per il momento però non è ancora possibile, visto che la finestra sta socchiusa giorno e notte. Un paio di sere fa si parlava del fatto che tutto sommato sono ancora abbastanza somara. Così il giorno dopo mi sono rimboccata le maniche perché davvero non ho voglia di fare la prima a 14 o 15 anni. Poi hanno stabilito che non posso leggere praticamente niente. La mamma attualmente ha signori, signore, servitori, che ovviamente non posso avere. Margot sì. Devo prima maturare un po', come la mia sorellina che è così dotata. Poi abbiamo parlato di quanto sono ignorante in filosofia, psicologia e fisiologia. Queste parole difficili sono andate a cercarle sul Können. E in effetti non ne so niente. Forse l'anno prossimo sarò più matura. Ho scoperto con orrore di possedere un unico vestito con le maniche lunghe e 3 maglie di lana per l'inverno. Papà mi ha autorizzata a farmi un maglione di lana bianca. La lana non è molto bella, speriamo almeno che sia calda. Ci restano ancora un po' di vestiti a casa di amici, ma purtroppo potremo averli solo dopo la guerra, se ci saranno ancora. Proprio quando ti stavo scrivendo di lei, la signora Van Dan è arrivata e zac, ho chiuso il quaderno. Senti, Anne, non è che mi faresti dare un'occhiata? No, signora. Anche solo l'ultima pagina? No, neanche quella, signora. Ovviamente mi era venuta la tremarella, perché proprio su quella pagina non avevo scritto un granché bene di lei. Così ogni giorno succede qualcosa, ma sono troppo pigra e troppo stanca per scrivere tutto. Tua Anne. Domenica 27 settembre 1942. Cara Kitty, oggi ho avuto una cosiddetta discussione con la mamma. La cosa seccante è che scoppio subito a piangere, non ci posso fare niente. Papà è sempre carino con me, mi capisce, anche molto più di lei. Oh, in momenti come questi non riesco a sopportarla. Del resto, anche per lei sono un'estranea, si vede. Non sa neppure come la penso sulle cose più normali. Parlavamo di cameriere, che bisogna chiamare collaboratrici domestiche. Dopo la guerra verrà sicuramente preteso. Io non ero subito d'accordo e lei allora ha detto che parlo troppo spesso del dopo e che in quei momenti mi credo una gran dama, però non è affatto vero. E poi potrò ben costruire i miei castelli in aria. Non è così grave e non c'è bisogno di prendersela tanto. Almeno il babbo mi difende. Senza di lui credo proprio che non ce la farei. Nemmeno con Margot vado d'accordo. Anche se nella nostra famiglia non ci sono mai scontri come al piano di sopra, per me non è sempre gradevole. Il carattere di Margot e quello della mamma mi sono così estranei. Capisco le mie amiche meglio di mia madre. È un peccato, no? La signora Van Dan ha di nuovo un diavolo per capello. È spesso di cattivo umore, continua a far sparire sotto chiave le sue cose. Peccato che la mamma non risponda ad ogni sparizione di qualcosa dei Van Dan con una sparizione di qualcosa dei Frank. Certe persone sembra che provino un piacere particolare a educare non solo i propri figli, ma anche quelli degli altri, per esempio i Van Dan. Margot non c'è bisogno di educarla, per sua natura è la bontà, la simpatia e l'intelligenza in persona. Tutte le imperfezioni che lei non ha, le ho io. Più di qualche volta a tavola volano degli ammonimenti e le risposte offensive. Mamma e papà mi difendono sempre a spada tratta. Senza di loro non riuscirei a sopravvivere incolume ai continui attacchi. Se prendo poco di una verdura di cui proprio non ho voglia e mangio invece un po' più patate, i Van Dan, e soprattutto la signora, non riescono a darsi pace per il capriccio. Prendi ancora un po' di verdura, Anne, su, mi sento subito dire. No, signora, grazie, rispondo io, mi bastano le patate. La verdura fa bene, lo dice anche tua madre. Prendine ancora, insiste lei, fino a quando non interviene papà a difendermi. E lei? Avresti dovuto essere a casa nostra. Lì almeno i bambini vengono educati. Che razza di educazione è questa? Anne è tremendamente viziata. Io non lo permetterei mai, se Anna fosse mia figlia. Con questa affermazione comincia e finisce ogni volta il flusso di parole. Se Anne fosse mia figlia. Beh, meno male che non lo sono. Ma per tornare all'argomento educazione, ieri, alle interessanti parole della signora seguì il silenzio e poi papà rispose. Io trovo che Anne sia molto ben educata, almeno ha imparato che non è il caso di rispondere alle sue lunghe prediche. Quanto a quella verdura, non le posso rispondere altro che guardi nel suo piatto. La signora rimase interdetta e ha ragione. Quel guardi nel suo piatto era naturalmente riferito proprio a lei che di sera non sopporta i fagioli e nessun tipo di cavolo perché le fanno venire una certa ventosità. Ma questo potrei dirlo anch'io. Che scema. Almeno avesse il buon gusto di non criticare me. È buffo vedere come la signora Van Dan arrossisce in fretta. Io no, per fortuna, e la cosa sotto sotto le dà un fastidio tremendo. Tua Anne. Daria De Florian ha letto Il diario di Anna Frank, edizione definitiva a cura di Miriam Pressler, traduzione di Laura Pignatti, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.